si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Cultura e voglia di far bene, i pregi dei tempi della crisi, scrive questa mattina nel suo Pubblico e Privato Francesco Alberoni in prima pagina sul Corriere della Sera. E come spesso facciamo, brillantemente e sapientemente illuminati dal pensiero di Alberoni, iniziamo a parlare appunto dell'antagonismo anticrisi visto sotto due punti di vista esattamente antitetici. Blitz ad anarchici tra i tavoli VIP del Cambio, il ristorante di Camillo Cavour. Sono arrivati in sei, neri i vestiti e il cappuccio. Suonano, la porta davanti a Palazzo Carignano, primo Parlamento d'Italia, si apre. Gli anarchici schizzano nel salone principale, versano tra i tavoli due secchi di letame. Poi il volantino, guardate questo sangue, stasera non mangerete. Poi scappano, inseguiti dai camerieri. Voglia di farsi bene non è certo quella che ha ispirato gli anarchici antagonisti torinesi che giorni fa sono andati con secchiate letame e hanno irrorato le persone che hanno seduto in uno dei posti più esclusivi di Torino. Gesto senz'altro ispirato da un profondo senso di disagio nel momento di crisi che stiamo passando esattamente in questo momento. Io ho voluto titolare questa mattina la riflessione appunto due facce, due atteggiamenti in fase di luna calante. Da una parte appunto questi stercolatori antagonisti, ma è anche normale in tutte le fasi di luna calante, chi ha vissuto in campagna sa, è consigliabile la concimazione, perché è il periodo in cui si preferisce usare il concime, ma certo non in maniera così impropria. Ma mentre da una parte c'è chi il momento della crisi lo definisce come una sorta di attacco, di frontale oltraggio nei confronti di chi sembra essere uno sberleffo vivente a questo senso di crisi, quindi gettare con dispetto secchiate di sterco addosso a chi sembra sprecare e consumare. D'altra parte noi abbiamo identificato un altro tipo di atteggiamento in fase di luna calante, totalmente antitetico, è quello dell'edonista anticrisi. 1. L'edonista anticrisi tiene correttamente conto delle difficoltà che dolorosamente affliggono i suoi simili in congiuntura economica, ma usa questa circostanza per procurarsi occasioni di felicità che mai si era permesso al tempo delle vacche grasse. 2. L'edonista anticrisi fa delle scelte, deve tagliare le spese, lo fa come tutti, ma la differenza è in tutto quello che ancora lui si permette. L'edonista anticrisi investe il suo risparmio per combattere la tristezza e compensare l'angoscia collettiva. 3. L'edonista anticrisi compra più libri di quanto avesse mai fatto. Un libro può far svoltare una serata in casa e costa 10 volte meno di quanto gli sarebbe costato uscire. L'edonista anticrisi sa pure che lasciare libri distrattamente abbandonati sul letto fa più effetto di un calice di champagne con le ostriche. Certo, ogni seduttore dei tempi di crisi sa benissimo che in fondo con una piccola raccolta di libri, molte volte anche si trovano a remenders o in saldo, in occasione, si può fare una gran figura lasciando distrattamente appoggiato sul guanciale, non so, un profondo trattato di metafisica orientale o quei manuali, non so, come convivere serenamente con le proprie elefantiache sproporzioni. Ecco, basta lasciare quei libri lì distrattamente e si ottiene in maniera economica un effetto seduttivo o perlomeno di seduttiva interrogazione sulle qualità del soggetto ospitante, molto superiore a una dispendiosissima uscita a cena fuori in un lussuoso ristorante dove poi si rischia che appartenga improvvisamente alla geografia del raid anticrisi degli stercolatori che poi arrivano con le secchiate in letame. 4. Questo non significa che l'edonista anticrisi ami starsene segregato in casa. Quando è però sfiorato dal timore che la rinuncia alla socialità possa far crescere l'angoscia, esce. Ma vuol sentirsi gratificato da una scelta che lo faccia sentire differente rispetto ai gusti di massa. 5. L'edonista L'artista anticrisi va per musei, teatri, concerti. Si fa forte dell'idea che una scelta impopolare fa crescere la sua autostima, movimenta le sue endorfine, gli amplifica l'orgoglio facendogli dimenticare il minor investimento in simboli concreti di status esteriore. 6. L'edonista anticrisi va meno al ristorante o non ci va per niente, risparmia sulla spesa. Ma non bada a spese sulla qualità del poco che si concede. Frequenta pizzicherie di lusso e acquista prelibatezze in piccole quantità. Mortifica le maniglie dell'amore e fa godere il palato. Ora, la domanda è chiara e precisa e senza possibilità di una terza alternativa. A quale categoria vi sentite di appartenere voi questa mattina, in una fase accertata, certificata, proclamata, per qualcuno esagerata, per altri sottaciuta, di luna calante? 800240024. Fate parte voi del bilioso popolo di coloro che vorrebbero gettare letame su tutti quelli che vedono consumare un tenore di vita che viene rappresentato come un oltraggio al senso di mortificazione che tutti dovremmo condividere in tempo di crisi? Oppure fate parte della edonista anticrisi, personaggio strano, singolare, ma certificato, testato, esistente, misurato, commensurato? È colui che di fronte alla crisi paradossalmente assume un atteggiamento di profondo narcisismo, di edonismo appunto, di culto di se stesso. Il poco che può permettersi non lo usa per consumi che mantengano comunque l'apparenza di un tenore di vita che non si può più permettere nessuno, ma anzi investe e massimalizza alcuni consumi di cui una volta sembravano non aver per nulla bisogno. Quindi investe in cultura, quindi capisce che esistono delle forme molto gratificanti di riempire il tempo libero, che in fondo è la voce di spesa più alta, più consistente in questo momento, quella che più sembra pesare. Quindi ciò che taglia magari in culto esteriore, in abiti, la grande crisi oggi sono coloro che vendono abiti e vestiti. Improvvisamente ci si rende conto che era superfluo il nostro quasi compulsivo bisogno di cambiarci continuamente, seguire continuamente ogni minimo frisson, ogni minimo cambiamento di alito, di vento, della moda. Quindi però guardiamo più al contenuto, quindi investiamo più sul nostro corpo. Improvvisamente ci rendiamo conto che la nostra pelle in fondo è un bene che ci appartiene, che nessuno può portarci via, nessuno può ipotecarci, che non è sottoposto a questo futile mutare delle mode. E quindi l'edonista anticrisi guarda più alla qualità del proprio corpo. Le palestre si stanno riempendo i centri estetici. La crisi vera non viene per niente certificata o toccata da chi fabbrica prodotti per la bellezza del corpo. I cosmetici continuano ad avere un fortissimo mercato, perché le persone magari hanno deciso di risparmiare sul secondo, terzo capo di abbigliamento che si acquista ogni stagione, ma in realtà investono molto di più sul loro corpo. 800240024. Da che parte state nella fase di luna calante? 7. L'edonista anticrisi sa che il suo tempo libero è la maggior voce di spese superflue. Deve tagliare in piaceri della carne e quindi valorizza la carne che già si trova in casa per vincolo matrimoniale o affettivo. La cura del corpo equivale alla manutenzione di una proprietà immobiliare. La pelle è un sicuro bene di rifugio. Può dare delle belle soddisfazioni anche nel tempo. 8. L'edonista anticrisi non lesina il suo budget dedicato all'aspetto gradevole. Magari rinuncia a vestiario firmato, ma non al deodorante e alla crema idratante. Il corpo dell'edonista anticrisi trasforma in virtù la necessità di dover stringere la cinghia. Una muscolatura ben definita può far sembrare un elegantone anche chi indossi una maglietta. Stiamo definendo tra la documentazione concreta e il paradosso, che in fondo ci piace, quelli che sono alcuni atteggiamenti che però probabilmente molti di voi sentiranno affini al proprio comportamento quotidiano. Qual è il moto di reazione più evidente che avete, soprattutto adesso che cominciano ad addolcirsi le giornate, comincia a venire il tempo beato della primavera in cui si risvegliano i sensi, e sembra un paradossale senso di oppressione quello che ci viene attraverso le notizie, attraverso gli indicatori reali, concreti. Qui non vogliamo nascondere o minimizzare quelli che sono i sintomi evidenti della crisi: persone che perdono il lavoro, aziende che si fermano, indubbio problema economico diffuso, diffusissimo, aumento della povertà. Esiste tutto questo, ma esiste anche un atteggiamento medio nei confronti di questo tipo di realtà, che porterebbe a questa duplice necessità o questo duplice atteggiamento, questo bisogno di reazione. Da una parte il senso di rivolta, di protesta, di effrazione e di sporcare tutti coloro che sembrano rappresentare un'icona vivente antitetica rispetto a questo senso comune di osservazione mesta del senso della crisi, e quindi andare con il secchio del letame e tirarlo addosso all'abito di gran prezzo, al ristorante di lusso, a tutto ciò che è iniziato un'estate scorsa, quando ci fu una rivolta in Sardegna nei confronti degli ospiti di uno dei nuovi locali di Briatore, e scesero e cominciarono ad insultare i ricchi che arrivavano nei gommoni e scendevano sulla spiaggia. Quindi una rivolta dei poveri nei confronti dei ricchi, qualcosa di molto profondamente ancorato in uno spirito di rivolta, in una sorta di ansia giacobina di riscatto. D'altra parte l'edonista anticrisi, che sembra che si lasci scivolare sopra tutta la mestizia della crisi, semplicemente reagendo, facendo del bene a se stesso. Deve anche lui limitare il suo budget, deve anche lui limitare le sue spese, anche lui ha i suoi problemi, ma il poco che gli rimane lo impiega in maniera fortemente legata a un senso estetico, piuttosto che nella necessità di mantenere uno status esteriore. Non vuol più prendere in giro nessuno, guarda soltanto a se stesso e al proprio piacere. 9. L'edonista anticrisi deve tagliare come tutti le spese d'evasione. Da buon edonista conosce il prezzo della lussuria che non potrebbe certamente più permettersi. Per non cadere in tentazioni da bancarotta domestica, riporta nel talamo casalingo quelle scenografie che possono prestare corpo familiare alle più adulterine delle fantasie. 10. Questo permette all'edonista anticrisi di attribuire nuovo valore a polpe carnose anche viste e riviste, ma che assumono un nuovo fascino cambiandone la confezione. 11. Con pochi soldi trasforma, abbiglia, maschera. Insomma, assume e fa assumere identità multiple nel proprio rapporto di coppia. Con lussuriosa parsimonia, così, compensa ogni dispendiosa tentazione a render concrete le più costose sue voglie. Diego, buongiorno. Buongiorno. Ecco, il primo a telefonare, a dare il suo parere. Lei è edonista anticrisi oppure stercolatore antagonista? Vediamo, visto abbiamo... edonista anticrisi. Edonista anticrisi. In che maniera lei applica l'edonismo anticrisi? Ma nel modo più semplice possibile, cioè non vergognandosi di quello che è stato il momento più, diciamo così, allegro e felice, anche dal punto di vista lavorativo, che mi ha dato la possibilità di godermi dei vantaggi di uno status economico non straordinario, ma comunque benestante. Io ho la passione per un'auto sportiva e mai come in questo momento la uso, perché mi toglie una straordinaria soddisfazione, non perché non avendo nulla da temere o da vergognarmi, mi fa piacere usare quello che ho comprato. Allora, lei, per andare in giro con la sua Porsche, la quale non ha rinunciato, sì, a cosa deve però rinunciare? Che questo è il bello dell'edonista anticrisi. Devo rinunciare a una serie di altri vantaggi, per esempio i viaggi. Ho rinunciato a togliermi un sacco di soddisfazioni con tanti piccoli weekend. Faccio molti meno viaggi fuori dalla mia città, me ne sono molto più in città usando le cose che ho. Quindi vale più un giro in Porsche, diciamo, nel centro cittadino, che andarsi a fare un weekend di lusso da qualche altra parte? Ma insomma, nel senso, sì, diciamo che usando quello che ho, lo uso dove devo, non la uso per andare a farmi vedere, la uso per fare le cose che devo fare normalmente. Se devo andare in banca, ci vado con quella. La uso perché ce l'ho nel garage, e invece magari non vado sulla costiera amalfitana, come facevo molto spesso con mia moglie, proprio di qui in questa stagione, infatti non ci andiamo. Oppure rinunciamo... Diciamo che è un piacere più intenso e più esaltante quello dell'edonismo anticrisi, cioè di godersi di questi generi di lusso in periodo di crisi, sapendoci se li può permettere rinunciando ad altre cose. Sì, certo, assolutamente, senza diciamo così spandoneggiare in maniera esagerata, però usando quello che uno già ha. Per esempio io ho una passione per l'abbigliamento, ho tanti vestiti, non ne compro quest'anno di altri, ma ho tirato fuori tutti quelli che avevo e li uso cambiandomene uno al giorno, quello che non ho mai fatto durante il resto degli anni, insomma, per cui un po' di risparmio c'è, anzi molto, utilizzando tantissimo quello che già avevo e che magari prima non ci facevo caso, per cui ho dato uno straordinario valore alle cose che già avevo e allo stesso tempo non ho nessun timore a frequentare luoghi o posti o zone dove potrei essere additato dagli stercatori come uno che diciamo così non rispetta le crisi altrui. Sì, perché il vero problema è che l'edonista anticrisi, quando diventa un perfezionista e è al massimo della sua arte, simula tanto la ricchezza che in realtà non ha, che potrebbe diventare bersaglio dello stercolatore antagonista. Bene, 800 24 00 24, in seconda parte, assieme a Monica Fabris, che è una sociologa che si è occupata di questo problema, cercheremo di definire meglio queste due tendenze. Soprattutto voi telefonate, a meno che voi non apparteniate a una di queste due categorie, abbiamo già detto, lo stercolatore antagonista o l'edonista anticrisi. 800 24 00 24, stiamo cercando di tracciare due atteggiamenti tra di loro in apparente contraddizione, ma che entrambi sembrano nascere da una fase di luna calante, così abbiamo definito un periodo in cui è palpabile, per qualcuno più concretamente, per altri più teoricamente come clima diffuso, un senso di crisi. Beh, alla crisi come si reagisce? Si reagisce in due maniere: da una parte lo stercolatore antagonista, racchiuso nel gesto titanico di anarchici torinesi che hanno gettato secchiate di letame sulla brava e opulenta borghesia torinese che consumava raffinati manicaretti in un ristorante di lusso, e d'altra parte l'edonista anticrisi, colui che approfitta di questo momento di crisi per gratificarsi con consumi che mai avrebbe fatto prima, o perlomeno che apparentemente prima erano soffocati in uno stile di vita che sembrava mirato più che altro a seguire quello che era un trend diffuso. Per essere come gli altri abbiamo dimenticato ciò che veramente fa bene a noi stessi. E come annunciato già in prima parte, abbiamo una persona che ci ha ascoltato con attenzione la prima parte, ci darà qualche elemento poi più tecnico rispetto a quello che stiamo vanamente cercando di teorizzare. Monica Fabris, buongiorno. Buongiorno. Allora, Monica è sociologa, presidente del GPF, Istituto di Ricerca e Consulenza Strategica sul Cambiamento Sociale, i Consumi, la Comunicazione. Ecco, hai avuto te qualche sentore, qualche traccia dell'edonista anticrisi nelle tue ricerche? Assolutamente. Il profilo che avete tracciato corrisponde proprio alle tendenze emergenti in atto. Noi ce lo siamo inventato, ti avverto. No, infatti, direi che l'unica cosa che manca al completare il profilo dell'edonista anticrisi è il senso di socialità e di relazionalità. Cioè, tra i vari beni che nella crisi, in tempo di crisi, sono rivalutati, c'è quello della relazione. E su questo l'edonista e l'antagonista si trovano su un piano comune. Cioè, entrambi sono convinti che l'uomo da solo non va da nessuna parte. Entrambi riflettono un calo dell'egoismo sociale e un ritorno a reinvestire negli aspetti più comunitari, più relazionali. Gli uni lo fanno in modo antagonista, violento e per contrapposizione, gli altri lo fanno in modo costruttivo, quindi recuperando il valore del rapporto con gli altri, consapevoli che da soli non si va da nessuna parte. Anche perché il rapporto con gli altri, in fondo, può essere, se visto in maniera gratificante, una maniera anche economica di passare il proprio tempo, perché il problema del tempo libero, che è il problema che assilla l'occidentale industrializzato e benestante, è quello che rappresenta forse la voce di spesa più consistente. Se noi troviamo io e te una maniera felice per stare assieme, anche semplicemente beandoci di ciò che non avremmo mai pensato essenziale in un rapporto, abbiamo anche svoltato il problema economico. Infatti gli altri sono un modo per potenziare le proprie capacità di trarre piacere dal tempo libero. E per questo potenzia le sue facoltà fisiche, cioè va in palestra, si compra creme, cosmetici, pensa essere bello, conservarsi il meglio possibile, l'edonista anticrisi? Assolutamente, come dicevate giustamente, il corpo, la bellezza rappresentano un bene inalienabile che in tempo di crisi viene mantenuto molto caro, e quindi tutto ciò. Il mantenimento del benessere fisico è fortemente valorizzato. E così come dicevate giustamente, sono valorizzati i consumi culturali e le competenze culturali. Noi abbiamo fatto una ricerca recentemente in cui emerge come i nuovi status symbol sono proprio delle competenze, ad esempio essere esperti di un settore, sapere tutto su un determinato argomento, conoscere le lingue straniere. Le competenze e i saperi non costano, ma valgono molto in questa nuova società in cui ciò che accomuna l'edonista e l'antagonista è un velo etico, no? Un velo etico che non si contrappone al piacere. Anzi, potremmo dire che gli edonisti nascono proprio oggi in tempo anticrisi, perché è in tempo di crisi che si impara veramente l'arte del godimento e del piacere. Anche perché si era un po' alla ricerca disperata di forme di piacere in un momento in cui sembrava ci potessimo permettere qualsiasi piacere, in realtà non ce ne godevamo nessuno. In realtà non era un piacere, cioè il consumismo compulsivo in realtà era una tirannia, tant'è vero che si respira nella società civile, quella vera, non quella raccontata e alla televisione, si respira proprio un senso di liberazione, per poter non andare via tutti i weekend, come raccontava bene l'intervistato prima, non essere forzato al weekend a tutti i costi, ma poter starsene anche a casa e scoprire che magari a casa si trae più piacere perché si ha più tempo, ad esempio. Ecco, lo faccio sentire Monica, l'ultima dei passaggi del decalogo dell'edonista anticrisi, perché sintetizza proprio quello che tu stai dicendo. 12. Anche il burlesque rappresenta una gloriosa rappresentazione di spensierata ed economica apertura a gioie ultraterrene. Il camuffamento ironico rende qualsiasi impiegata, casalinga, dirigente, zitella, ammogliata o vedova in una bomba del sesso. 13. La notte inquieta dell'edonista anticrisi spesso si consuma in felice ardore nell'autarchica fabbrica di illusioni, che è un luogo dove la gente si incontra per ballare in corpo a corpo economici e ad alta compensazione emotiva. Altri due trend che abbiamo individuato attraverso ricerche personali: l'aumento dell'acquisto di prodotti erotizzanti, biancheria particolare, oggetti stimolanti che permettono anche lì di valorizzare quello che già ha uno per le mani, perché andare a cercare altrove quando si possono scoprire facce insospettabili di ciò che già si ha a portata di mano, quindi valorizzazione di ciò che si possiede. Luoghi di aggregazione, le sale da ballo, la gente ha riniziato a ballare, andare a ballare, imparare a ballare, andare a scuola. Abbiamo una meravigliosa trasmissione sul tango, abbiamo visto che in fondo gli argentini, che perlomeno a Roma frequentano tutte le milongas, che già di crisi non possono che insegnarci, avendone passato una tristissima, ci dicono che l'abbraccio tra due ballerini di tango è una delle forme di conforto più radicali in momenti di crisi. Monica, sei d'accordo? Assolutamente, è una forma di conforto, ha un valore compensatorio ovviamente, no? È consolatorio, e in realtà l'abbraccio del tango ha tantissimi significati sociali che non si esauriscono solo al tema della crisi, però sicuramente in tempo di crisi si scopre, si ha una nuova consapevolezza, una nuova lucidità e si scopre che ciò che cercavamo è molto più vicino. È molto più normale, no? È molto più, diciamo, a portata di mano, e il ballo è una di quelle tante esperienze che ci dice che ci si può sentire meno soli in modo molto semplice, anche seguendo una tradizione che in fondo accompagna l'uomo dalla sua stessa nascita culturale. Abbiamo due esempi antitetici dei due atteggiamenti. Abbiamo Marina, che dovrebbe appartenere, se non sbaglio, agli stercolatori antagonisti. Marina, buongiorno. Buongiorno a lei. Le andrebbe con il suo secchione il letame? Beh, guardi, quando ho sentito quello che è successo a Torino... No, io faccio una piccolissima premessa. Io sono un'elettrice del centrodestra, non appartengo a centri sociali, ad anarchici, perché questo è giusto premetterlo. Però faccio parte del gruppo Caritas qui nella mia zona e siccome vedo delle situazioni, mi creda, da brividi, ragazzina che non ha i soldi per pagarsi l'abbonamento sull'autobus per andare a scuola, dicasi 16 euro che noi diamo, gente che viene a piangere che non può pagare la bolletta del gas o della luce eccetera, che noi cerchiamo con i nostri poveri mezzi perché chiaramente è tutto volontariato. Quindi vivendo io questa situazione, quando ho sentito quell'episodio ho detto beh caspita, se fossi stata lì forse anch'io avrei preso un secchio e l'avrei buttato sul tavolo. Perché? Sì, ma non lo senta come senso di colpa. Non abbiamo attribuito una appartenenza politica alla secchiata del letame. No, è un atteggiamento. No, la mia è stata una premessa, perché altrimenti dice, ma questa sarà dei centri sociali, vatti alla pesca. No, ma non l'ho mai sospettato, signora, appena ho sentito la sua voce. Mi creda, guardi, è una questione di etica, di buon gusto, di senso della misura. Quando c'è gente che veramente viene a elemosinare i 10 euro, ma questa gente si provasse a frequentare certe situazioni, a sentire il polso veramente della situazione della gente che vive la crisi sulla propria pelle, come fai a sentirti tranquillo a un tavolo pieno di per carità di Dio? Nessuno sarà più tranquillo, Marina, dopo che hanno sentito lei, perché fino a che sono gli anarchici antagonisti, vanno in giro incappucciati, vestiti di nero, si riescono a individuare e reprimere, ma quando andranno in giro le signore Marine con la loro borsetta, con la loro veletta, con il loro abito elegante e il secchio dell'etame in mano, probabilmente staranno molto più attenti tutti. 800 24 00 24, ci eravamo interrotti dopo aver dato voce a una delle due facce dell'atteggiamento che stiamo identificando, duplice, in tempo di luna calante. Aveva parlato una signora torinese della Caritas, in realtà in petto batteva il cuore della stercolatrice antagonista, sarebbe andata con il secchio di letame anche lei a far capire ad alcune persone che non ne hanno consapevolezza di quanto sia triste, sia grave, sia sentito il problema della miseria scalpitante e ancora nascosta anche in classi sociali insospettabili. E come avevo annunciato, abbiamo Andrea invece, edonista anticrisi. Andrea, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Allora, premetto che io nutro autentica e sincera stima nei confronti delle persone come la signora Marina che si dedicano al prossimo svolgendo un ruolo socialmente utile. Io appartengo invece alla categoria degli edonisti anticrisi. Per quale motivo? Perché tra le passioni, nonostante il periodo di crisi, se ne parla tantissimo, forse anche in maniera a volte fastidiosa, io ho la passione per la fotografia e per tale motivo, rinunciando un pochino qui e un pochino lì a qualche cosina, per esempio l'abbonamento telefonico, riducendo il piano tariffario, sono riuscito ad acquistarmi una macchina fotografica digitale, una bella reflex. Ci ho detto perché mi riallaccio anche al discorso della bellezza che trattavate poc'anzi. Io abito a Gaeta, in un contesto paesaggistico, naturalistico, architettonico incantevole, a due passi anche da Sperlonga, quindi andando a piedi per la mia città diciamo che faccio qualche viaggio in meno fuori porta, qualche gita in meno, però comunque mi ritaglio questi momenti dedicati alla bellezza, intesa come bellezza culturale, oltre alla passione della fotografia, anche quella per il cinema. Quindi è diventato l'edonista anticrisi più stanziale, ma da uno spessore fantastico, come ha avuto prima questo suo muoversi meno. Si muove meno, ma comunque ha una qualità esasperata e piacevole del proprio tempo libero che prima non si sarebbe mai sognato. La dinamica nei confronti di una che si contrappone, la dinamica indifferente, molte volte superficiale, molte volte più piacevole nelle premesse e nella volontà che nella reale consumazione, si contrappone a una statica profonda e sensorialmente sentita. Monica Fabris. È così, cioè tra i beni consumati dall'edonista anticrisi ci sono proprio i beni ambientali. E quindi la natura, l'ambiente rappresentano delle dimensioni molto importanti in questo momento, perché offrono dei piaceri meno effimeri, più duraturi, più veri, più intensi di tanti altri consumi più mordi e fuggi, più superficiali, in realtà diciamo più ostentativi ma meno autentici. Ma cosa ne farà le spese di questo, Monica? Non so, i viaggi di nozze alle Maldive, i fine settimana a Ibiza, ma... queste cose che sembravano alla portata di tutti, ma che in realtà erano soltanto superficialmente appaganti da un punto di vista dei sensi. Sì, in realtà non è necessariamente stanziale l'edonista anticrisi, viaggia quando veramente vuole andare altrove, quando veramente ha qualche un obiettivo da perseguire, quindi saranno un po' le spese... tante forme di viaggi, ma più quantitativamente che qualitativamente, quindi ci si muoverà un po' di meno, ma si cercheranno delle emozioni più intense. L'intensità dell'emozione sarà sempre di più il criterio di scelta della meta di viaggio, e questo è dimostrato da tantissime recenti ricerche proprio nell'ambito del turismo. Finirà il turismo di massa, perché piacevolezza è antitetica rispetto agli itinerari massificati, le crociere mordi e fuggi, che in mezza giornata vedi mezzo Mediterraneo, capito, qualcosa del genere. Sarà un po'... Esattamente, e che non lasciano un vero piacere, anzi, in cui ci sia anche il minimo rischio di una frustrazione. Ma volevo aggiungere una cosa sugli antagonisti, in particolare rispetto all'intervista della signora. Gli stercolatori prima. Antagonisti, sì. Gli stercolatori. Dov'è abituarti, Monica, a queste categorie? Perché noi ce le siamo inventate questa mattina, ma te che scientificamente fai sondaggi, prima o poi dovrai in qualche maniera definirle. Infatti. No, c'è un tema di lutto che non dobbiamo ignorare, e che in fondo l'edonista proprio anche lui non ignora. Cioè, è vero che qualcuno in questa crisi ha pagato tanto e troppo, questo è un dato innegabile, per cui ci sono delle fasce di popolazione che non possono permettersi neanche l'edonismo selettivo rivisitato. Quando manca il biglietto per l'autobus, capisci che c'è poco da tagliare. È un tema di lutto di cui bisognerà prendere atto, e infatti l'edonista ne prende atto rinunciando a questo aspetto ostentativo. No? E questo diciamo non è necessariamente diciamo un tema di rinuncia ai consumi di clima mortifero, ma ci sarà un mood, un tono, uno stile che sempre più si diffonderà, rispettoso anche di queste fasce di popolazioni diciamo escluse da ogni tipo di strategia anticrisi. Grazie. Cristina si riflette nella descrizione di Nicoletti, dice fitness, cura del corpo e anche topa da biblioteca. Cristina. Buongiorno. Sì, mi sono veramente riflettuta al massimo nella descrizione iniziale, prima di tutto perché la cura del corpo ritengo sia importantissima, però senza spendere. Io abito nella bellissima campagna senese. E tra l'altro, ecco, parlavate di turismo, io sono guida turistica e lavoro prevalentemente con americani che sono diminuiti notevolmente, e quindi la crisi mi ha portato ad avere più tempo libero per correre all'aria aperta in questa straordinaria campagna. Quindi se potessi descriverla, se potessi descriverla meravigliosamente curata nel corpo, nella pelle e con un libro sotto braccio. Con un libro è veramente sì un'ossessione, e volevo dire che è possibile studiare anche senza spendere denaro, perché le nostre città, grazie a Dio, sono veramente ricchissime di biblioteche, non solo le città ma anche nei paesi più piccoli, che mi capita appunto di transitare nel corso della mia professione, si possono trovare delle biblioteche fornitissime, quindi non c'è problemi da questo punto di vista. Poi tra l'altro vorrei dare anche un altro suggerimento: siamo in periodo di Quaresima e in tante parrocchie ci sono dei preti coltissimi che fanno gratuitamente dei corsi di esegesi biblica, dei corsi su San Paolo, visto che è l'anno paolino. Quindi basta sbizzarrirsi e veramente si può trovare un mondo al quale attingere. Va bene, per tutte le signore che applichino l'edonismo anticrisi anche alla volontà di farsi acculturare da un buon prete, c'è questa occasione. Luigi, una battuta soltanto, stiamo in chiusura. Buongiorno, ciao, ascolta, sono sempre in chiusura, io sono in crisi da una vita, comunque questo... Lei è uno stercolatore antagonista. Sì, sì, vi spiego perché, quando l'ho visto la televisione, poi sono d'accordo con quella signora anche su idee diverse, ma mi fa piacere che la pensa come me, ero a tavola e con mio zio, vedendo questa cosa, mio zio, che è una persona pacata, tranquilla, ha detto: hanno fatto bene, è ora che qualcuno comincia a fare queste cose. Quindi lei andrà a riempire il suo secchio, pronto a versarlo addosso? Se mi dovesse capitare, che sono con qualcuno, da solo non ho coraggio, però con qualcuno ci andrei volentieri. Va bene, buona raccolta, abbiamo definito entrambe le categorie che volevamo naturalmente verificare e a cui volevamo dare esistenza, essendocele inventate noi da qualche giorno, e quindi oggi siamo stati pienamente soddisfatti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0.